sto guardando il sole, il cielo, gli alberi e le nuvole. La potenza della vita che ci scorre dentro. Pensa a te, quante vite intorno e che profonda solitudine. La fortuna di esser vivi in questo momento. Però stasera quanto è bello il mare. E che fortuna poterlo guardare, poterti parlare. È di questo che